24 mattino. Sono le 8 e 17 minuti, eccoci qua con 24 mattino ed eccoci a parlare di economia. Dal 1 al 3 aprile alla Fiera di Roma, il primo appuntamento sull'ambiente urbano sostenibile, ecopolis09.it. Vi presenta... Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Eccoci qua. Allora, buongiorno. Prima Maurizio Tortorella, in apertura di rassegna stampa, ha detto che è un po' preoccupato per il suo impianto elettrico. Ecco, adesso diciamo che stamattina insieme a lui faremo preoccupare un po' di altre famiglie. Perché, come speriamo, detto, di no. No, preoccupare no, però informare, questo come al solito, è giustissimo. Parliamo appunto di impianti elettrici. Infatti, tra l'altro, a proposito dell'elettricità, ribadisco anche una notizia di cui abbiamo appena sentito nel nostro giornale radio: l'autorità del gas e dell'energia ha fissato le nuove tariffe che partiranno da domani, 1 aprile, quindi andiamo incontro ad un trimestre di nuovi risparmi per le famiglie italiane nella bolletta di elettricità e gas. Tutto questo ovviamente a patto che il nostro impianto elettrico, l'impianto elettrico della nostra casa, funzioni regolarmente. C'è una ricerca che è stata condotta lo scorso anno da Demoscopea per conto di Prosiel, che è l'Associazione Italiana per la Promozione della Sicurezza Elettrica, secondo la quale nelle abitazioni costruite prima degli anni 90, due impianti elettrici su tre in Italia non sono in regola. È una ricerca appunto che non nasce da nulla, perché è stata commissionata a questo istituto proprio dalla Prosiel, come vi dicevo. Noi stamattina abbiamo chiamato l'ingegner Paolo Perino, che è il presidente, oltre che amministratore delegato della BTC. Ticino. Ingegner Perino, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto a Soldi e Dintorni. Tra l'altro, parliamo di queste abitazioni costruite prima degli anni 90, quindi stiamo parlando adesso così a spanne, immagino, di gran parte del patrimonio immobiliare delle grandi città. Ma bisogna calcolare che in Italia ci sono circa 30 milioni di abitazioni, circa 12 milioni, da quanto risulta la nostra ricerca, non sono a norma, quindi effettivamente costituisce una parte molto importante del patrimonio immobiliare italiano. Allora, scopriamo un po' le carte di questa indagine. Come mai avete deciso di commissionarla e insomma, vi sorprende anche il risultato che così è emerso? Gli italiani sono convinti di avere tutti quanti casa in regola, con le prese, con i fili e conduttori? Ma in realtà noi sospettavamo che ci fosse una situazione di questo genere, poi bisogna sempre verificarla, il motivo per cui abbiamo chiesto a Demoscopia di fare un'indagine. L'impressione che si ha, stando in casa, è che se si accende la luce o se gli elettrodomestici funzionano, l'impianto va bene. In realtà non è così, molto spesso gli impianti non rispettano le norme, ma veramente i requisiti minimi di sicurezza. Per esempio, l'impianto di terra nelle case costruite ancora fino agli anni 60-70 non sempre era presente, e abbiamo ancora un grosso patrimonio immobiliare risalente a quegli anni a cui non è stato messo mano negli ultimi decenni. Ecco, quindi quello rimane una parte del patrimonio immobiliare sicuramente a rischio. Può essere che non si faccia il controllo dell'impianto elettrico della propria casa per pigrizia, ma forse non lo si fa anche perché non si conosce la normativa che regola il comparto dell'impiantistica, e questo comporta che 12 milioni di impianti non siano in regola con la normativa nel nostro paese. Cosa dice la legge, ingegner Perino? Ma la legge prescrive un certo numero di cose che sono contenute nelle norme CEI, e quindi la legge dice che gli impianti devono rispettare queste normative. Dice anche che gli impianti devono essere fatti da persone che siano autorizzate a metterli bene sugli impianti, quindi professionisti che siano iscritti all'albo delle imprese. Ingegnere, sì, allora, ammettendo di così constatare stamattina, ascoltando questa trasmissione, di abitare in una casa che appunto è stata costruita prima degli anni 90 e siamo così sensibilizzati a fare un controllo sulla regolarità del nostro impianto elettrico, da che cosa partiamo? Diamo qualche suggerimento pratico ai nostri ascoltatori, poi parleremo anche di costi, perché è un aspetto importante. Sì, direi che innanzitutto bisogna chiamare un professionista, quindi un installatore abilitato, e chiedergli che faccia una verifica. Questo è il primo passo. Dopodiché lui sarà in grado di dire se c'è necessità di fare degli interventi, di che entità sono gli interventi, sarà evidentemente anche in grado di fare un preventivo per l'intervento che deve fare. Ecco, quali sono i costi per adeguare un impianto a norma? Tra l'altro la vostra ricerca è stata riportata anche dal Sole 24 Ore di sabato nell'inserto Casa e Case, e si parla in media di un costo dai 1.000 ai 2.000 euro per adeguare un impianto elettrico di un appartamento di circa 100 metri quadri. Ovviamente questa è un po' la media di Trilussa, chiaramente dipende anche, immagino, dall'appartamento. Se abbiamo di fronte un appartamento completamente da ristrutturare, i costi saranno diversi. Questo è un costo, secondo lei, che va sostenuto per quale tipo di appartamento? Ma questo è un costo che può rappresentare il cambiare i cavi, i conduttori, fare in modo che sia un conduttore di terra e i dispositivi principali di protezione. Evidentemente, se c'è da mettere mano in modo più pesante all'impianto o rimettere i tubi nei muri o comunque fare degli interventi di muratura più importanti, il costo può salire. In ogni caso io direi che sul costo di una ristrutturazione per un appartamento medio la parte elettrica può valere il 2, il 3%, il 4%, ecco, secondo dei casi. Poi ricordiamo anche che tutto l'ambito delle ristrutturazioni oggi ha anche il beneficio fiscale del 36%, per cui questi costi possono anche parzialmente essere abbattuti, certamente, no? Certamente. Allora, posso avere una casa di proprietà, posso abitare in una casa invece in affitto. Questo non toglie che comunque prima di entrare in un'abitazione il controllo dell'impianto elettrico va fatto. Analizziamo le due diverse situazioni, ingegner Perino. Intanto, per l'acquisto di una casa di proprietà nuovo, il controllo dell'impianto elettrico deve avvenire secondo determinati criteri in questo momento, oggi? Ma purtroppo qui la normativa non è così precisa, perché era uscito l'anno scorso il decreto 37 in cui l'articolo 13 prevedeva che nelle transazioni immobiliari, siano esse compravendite che affitti, ci dovesse essere un certificato che attestava l'idoneità dell'impianto. In realtà nel giugno dello scorso anno questo articolo del decreto 37 è stato annullato, è stato cancellato, quindi di fatto oggi la normativa, la legislazione direi che è abbastanza lacunosa in questi termini. Per chi invece prende una casa in affitto, ingegner Perino? È la stessa cosa, purtroppo non c'è oggi un obbligo per l'affittuario di mettere la casa in ordine secondo la normativa. Un'ultima domanda, ingegnere, e poi ci dobbiamo salutare, ammettendo di avere l'impianto perfettamente in regola. Comunque, ogni quanto tempo è bene far eseguire dei controlli? Ma i controlli andrebbero fatti almeno ogni 10 anni. In realtà un impianto elettrico si controlla molto molto raramente, sono impianti che sono lì da 20-30 anni e nessuno si è mai messo mano. Ci sono poi alcuni dispositivi come differenziali che sono obbligatori in tutte le case, anche se non sono presenti in tutte le case, però sono abbastanza presenti, andrebbero controllati teoricamente almeno una volta al mese tramite il pulsante che c'è sul dispositivo di protezione, cosa che penso che molto raramente viene fatta. Insomma, speriamo stamattina di aver destato l'attenzione su questo argomento. Io intanto la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a lei, Perino. Buona giornata. A presto, Alessandro. E allora grazie, abbiamo capito qualcosa di più sui nostri impianti elettrici alle 12. Alle 12 rimonitoriamo la borsa e poi ci occupiamo oggi davvero di mutui e di tutte le novità, visto che ieri per il crollo di borsa abbiamo fatto saltare questa puntata, la riproponiamo per oggi, tutte le novità nell'ambito mutui. 24 mattino. Sono le 8:31, ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle notizie in primo piano. Dal suo arresto partì Tangentopoli, da stamattina è nuovamente in carcere. Mario Chiesa è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta di Busto Arsizio, è considerato dagli inquirenti il collettore delle tangenti nella gestione del traffico illecito di rifiuti. L'ex presidente del Pio Albergo Trivulzio, oggi 65enne, fu arrestato la prima volta il 17 gennaio 92, da lì nacque lo scandalo Tangentopoli. E vi ricordo che ne parleremo alle 8:45, avremo l'uomo che fece arrestare Mario Chiesa la prima volta. Il presidente americano Obama benedice l'intesa tra Fiat e Chrysler e l'amministratore delegato del Lingotto Marchionne volato negli Stati Uniti. Il leader della Casa Bianca, presentando il suo nuovo piano di salvataggio dell'auto, ha fissato due ultimatum. General Motors ha 60 giorni, Chrysler ha 30 giorni per completare l'intesa con la Fiat. In assenza di sviluppi, l'opzione preferita è il ricorso al fallimento pilotato. Tragedia dell'immigrazione al largo delle coste della Libia. Due imbarcazioni in rotta verso l'Italia sono affondate. Secondo alcune testimonianze sarebbero 500 i migranti dispersi. Ieri intanto la Marina italiana ha tratto in salvo 350 persone. E il ministro all'interno Maroni dice dal 15 maggio, quando sarà operativo il patto con la Libia, cesseranno gli sbarchi. Gianni Riotta è il nuovo direttore del Sole 24 Ore, decisione presa ieri dal consiglio di amministrazione del gruppo. Riotta sostituisce Ferruccio De Bortoli, che ieri è stato designato come direttore del Corriere della Sera. Per De Bortoli è un ritorno al quotidiano di Via Solferino. E tutto questo alle 8:33 minuti, dunque avete sentito quest'ultima notizia, non c'è più da oggi l'asterisco, l'appuntamento che era diventato un punto fermo di 24 mattino. Da parte mia voglio solo aggiungere un grande grazie sentito a Ferruccio De Bortoli, che negli ultimi due mesi, da quando è nata la trasmissione, ogni giorno ci ha accompagnato con i suoi commenti pieni della sua indiscussa professionalità e competenza, ma anche di una grandissima passione, come piace a noi. Grazie ovviamente di cuore e ovviamente un in bocca al lupo per le nuove sfide al Corriere della Sera. E allora alle 8:33 minuti il numero per i vostri messaggi 349-238-6666. Parliamo di università, e quando si parla di università purtroppo si parla a volte di concorsopoli, delle tante opoli, di parentopoli, di esamopoli. Il governo vuole porre un freno a tutto questo. Ieri si leggeva sul Messaggero alcune anticipazioni della riforma in vista dell'università che dovrebbe il ministro Gelmini presentare nelle prossime due settimane. Voglio salutare, ne parliamo con il senatore Giuseppe Valditara. Buongiorno. Buongiorno a voi. Senatore del Popolo della Libertà, è stato anche responsabile dell'università nella sciolta Alleanza Nazionale, è docente universitario, insomma di università se ne occupa. Senta, senatore Valditara, visto che anche lei ha proposto, fatto una proposta di legge che leggevo ieri sul Messaggero, ricalca un po' quello che è il piano anche del ministro Gelmini. Uno dei punti più discussi è quello degli esami, dei concorsi cosiddetti truccati, ai quali si vuole porre rimedio. Come ho letto ieri che verrà sostanzialmente cancellata la possibilità di fare i cosiddetti bandi locali, no? La legge Berlinguer, è così? Esatto, ma guardi, uno dei punti più discutibili dell'attuale sistema di reclutamento è proprio il carattere locale del concorso, con fra l'altro la presenza del membro interno. Noi riteniamo che il concorso locale sia anche un po' la causa della degenerazione del sistema universitario, con l'accentuarsi di quei fenomeni di nepotismo che sono stati più volte denunciati anche dalla stampa. Un dato per tutti: il 98% dei vincitori sono candidati interni, quindi questo vuol dire che in realtà si tratta di un sostanziale meccanismo di promozione senza alcun criterio realmente meritocratico. Non mi vorrà dire che qui ergo il 98% di concorsi sono truccati? No, ma non si tratta di concorsi truccati, si tratta di un meccanismo quasi dato per scontato, per cui insomma oggi come oggi il concorso locale veniva richiesto e bandito quando si presupponeva che il concorrente locale fosse tra virgolette il più idoneo, ecco. Poi, su misura, dopo che lo fosse per davvero o che la presenza dei membri interni in qualche modo fosse decisiva e il concorso locale in qualche modo venisse bandito quando ci fosse la sicurezza della vittoria del concorrente locale, questo insomma non sempre è facile stabilirlo, però è indubbiamente favoriva meccanismi per cui insomma a Bologna vince il mio, poi a Udine vincerà, certo, il tuo, certo. A Palermo ancora, l'altro ancora. Come si vuol porre un argine a questo? Cioè, qual è l'innovazione che si vuole studiare? Beh, innanzitutto il ritorno intorno ad un sistema di valutazione nazionale e questo credo che sia un ritorno auspicato dalla grande maggioranza anche degli stessi docenti universitari. E poi con un meccanismo a due fasi per cui vi dovrebbe essere una abilitazione nazionale e successivamente un concorso o comunque procedure selettive locali che dovranno poi le singole università determinare, con cui le università poi sceglieranno all'interno di una lista di abilitati, ovvero anche in competizione o comunque vi potrà essere la possibilità di chiamare da altre università, soprattutto penso anche a università straniere, sì, facilitando quel meccanismo di chiamata che oggi invece dall'estero, che oggi invece è molto più complicato. Su questo, senatore Valditara, visto che con noi un'altra opoli che spesso viene citata è quella rettoropoli, tra l'altro c'è qui con noi il rettore dell'Università di Cagliari, Pasquale Mistretta, che saluto. Rettore, buongiorno. Buongiorno. Senatore Valditara, un'altra dei punti è quello rettoropoli, cioè si dice non più di due mandati per rettore, questo per legge. Il rettore Mistretta è da un po' di anni, tra poco ce lo dirà. Questo è un punto, Valditara, che voi volete mettere nero su bianco? Ma guardi, come spesso accade, ci sono molti rettori, ma questo può valere anche per la politica, molti personaggi del mondo pubblico che meritano senz'altro di essere anche per la loro esperienza, per le loro capacità confermati. Però purtroppo se in Italia questo è vero, è anche vero che in molte occasioni si tende ad abusare del meccanismo di ripetizione della carica e quindi dato che la nostra riforma vuole dare più poteri ai rettori e più poteri al Consiglio di amministrazione per individuare un principio di responsabilità a cui poi far conseguire anche attribuzione di risorse alle università a seconda dei risultati e quant'altro, il rischio è che poi si creino vere e proprie dinastie e ritengo quindi anche memore dell'esperienza romana per cui non era, penso per esempio anche all'esperienza del presidente americano che ha forti poteri, per cui forse è sempre meglio evitare la iterazione dei mandati. Sì, limitarli. Allora, rettore Mistretta, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Lei è il secondo rettore più a lungo in carica, il primo è a Brescia, credo. Lei è rettore da quanti anni a Cagliari? Io concludo con 18 anni di carica, esattamente 6 mandati elettorali. Dice già concludo che fa, mette le mani avanti, dice ho finito. Ormai ho un'età che non mi consente di ulteriori proiezioni. Ah, per l'età? Perché sennò sarebbe andato... Però avrei corso il rischio di tentare ancora. Ma come mai? Perché un giorno sempre il Messaggero titolò, forse facendo anche arrabbiare, l'università sono io, qualche tempo fa. No. Senta, intanto voglio salutare anche il senatore Valditara, sì, perché seguo personalmente tutte le sue vicende, anche quando ha svolto nella fase di opposizione al governo precedente il suo lavoro per l'università e ho apprezzato anche, se mi consente, il senso della misura e mi pare anche dalle cose che ha detto stamattina un certo tipo di valutazione del positivo e del meno positivo. Però vuol mettere i limiti al mandato. Ecco, ma questo adesso ne parlo tra un attimo. Voglio solo dire una cosa a proposito dei concorsi. Io ho partecipato ad un concorso ormai secoli fa senza che ci fosse alcuno a proteggermi, tra virgolette, tant'è che il preside della mia facoltà, un preside illustre, mi chiese: ma Mistretta, chi ti presenta? Io dissi: ma nessuno, però ho dei buoni rapporti con Milano, con Bologna, con Genova, con Roma, con Napoli, eccetera. Buoni rapporti vuol dire tessere quel tipo di rapporti universitari, di ricerca e di amicizie senza le quali evidentemente uno non si fa conoscere. Ciò premesso, io ho vinto senza, appunto come dicevo prima, senza riferimenti cagliaritani, il che la dice lunga dal punto di vista anche del come certe cose possono andare rispetto a ciò che invece succede successivamente. Sono assolutamente d'accordo col fatto che i localismi non abbiano premiato. Prima di tutto non hanno premiato dal punto di vista delle cose che si dicono ormai e che dicono tutti, ma soprattutto non hanno premiato le università un po' decentrate come quella di Cagliari, che ovviamente hanno sentito meno più di altre il discorso della dinamica tra professori. Io ho avuto, sono cresciuto, e anche qui mi riferisco ad anni fa, grazie a un professore di Roma che è rimasto a Cagliari 12 anni e a un professore di Roma, un altro urbanista, che è rimasto a Cagliari 9 anni e a un professore di Torino che è rimasto a Cagliari 4 anni. Va bene, rettore, però le devo chiedere, visto che abbiamo purtroppo due minuti ancora, dice 6 mandati. 18 anni, insomma, però sono tanti. Il mio successo, se si può dire questo, è dovuto a due cose. Il primo è il senso dello Stato. Ho sempre difeso l'università come un'istituzione dello Stato pluralista prima di tutto e soprattutto fuori da qualsiasi tipo di pressione politica locale o nazionale, e questo credo che sia un fatto quasi eccezionale a livello di istituzione del paese. La seconda, che passo per essere un po' un accentratore, forse qualcuno anche un condottiero, beh, questo io credo che non sia un fatto negativo se c'è democrazia e soprattutto se la democrazia è fatta dal consenso degli studenti. Un condottiero, lei dice, sono più un condottiero. Certo, però voglio dire, altrimenti non si riesce a... Insomma, no, ma lei è stato eletto, dicendo, però alcuni rettori hanno cambiato anche gli statuti, cioè dicendo... Ma anche a Cagliari, ma gli statuti si cambiano, si vuole cambiare la Costituzione. Accidente. In Italia, non vedo perché non si possano cambiare gli statuti. Cioè lei poteva fare due mandati, ma il rettore, no, lei come rettore... No, potevo farne quattro. Ha cambiato lo statuto. Ha fatto cambiare lo statuto, non lei, ma il Senato accademico. Beh, diciamo, si è cambiato lo statuto, ma non soltanto per il rettore, si è cambiato anche per altre cose. Si è cambiato perché abbiamo fatto entrare più studenti in consiglio d'amministrazione e in Senato accademico, mentre prima erano meno. Si è cambiato perché c'è una rappresentanza diversa dei ricercatori. Insomma, si è cambiato anche per altre le cose. Le chiedo però, tanto lei ormai lo dica fuori dai denti, tanto lei ha quasi finito. È giusto, mi dica sì o no, è giusto limitare a due mandati, punto, secco, ma via? Guardi, così come sarebbe giusto per tantissime altre cariche, comprese quelle politiche. Qui in Sardegna si è fatta una battaglia per due mandati a livello di consiglio regionale e qualcuno poi ha perso su questo fronte. E nel Parlamento abbiamo illustrissimi personaggi che come non no. vogliamo perdere, ci sono da 30 anni. Come no, come anche di più. Sempre, mi pare che il senatore Valditara abbia detto comunque che è sempre una questione relativa. Anche di più, sì, ma anche di più di 30 anni. Io in ogni caso vi ringrazio, sia rettore Pasquale Mistretta, 6 mandati, 18 anni, rettore all'Università di Cagliari, sia senatore Giuseppe Valditara del Popolo della Libertà. Grazie per essere stati con noi. Le 8:46 minuti, eccoci qui, 24 mattino, l'ultima parte, a commentare la notizia che è di questa mattina, proprio una notizia che forse avete appreso nei giornali radio. L'arresto di Mario Chiesa, l'uomo che il 17 gennaio 92 fu arrestato in flagranza di reato per aver intascato 7 milioni di lire di allora, una tangente, e da quell'arresto si scatenò Tangentopoli, il coinvolgimento di tutti i partiti politici, insomma tutto quello che sappiamo. Io saluto Luca Magni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Luca Magni, oggi imprenditore, è l'uomo che allora, imprenditore, lei fece arrestare Mario Chiesa. Esattamente, il 17 febbraio. Febbraio, sì, mi perdoni, io ho detto gennaio a febbraio. E lei lo fece arrestare perché lei allora aveva un'impresa di pulizie, come ha adesso peraltro. E che cosa andò a dire ai carabinieri? No, io facevo dei lavori di pulizia nei reparti di Piabergo Trivulzio e mi ero incontrato con l'ingegner Chiesa, il quale mi ha detto che per poter continuare a lavorare dovevo dare lui il 10% di tutti gli importi che facevo di lavoro. Dopo qualche mese mi sono rivolto ai carabinieri in via Moscova a Milano, dove ho parlato con un capitano, il capitano Giuliani, al quale ho raccontato la vicenda e il quale mi consigliò di fare una formale denuncia. Da lì poi è partito tutto. È partito tutto. Stamattina Mario Chiesa è stato arrestato nuovamente. Ripeto, garantisti al massimo. Però a lei, Luca Magni, e agli ascoltatori voglio fare sentire quello che il colonnello Michele Sarno, che è il comandante dei carabinieri del NOE, il Nucleo Tutela Patrimonio Ambientale del Nord Italia, ha detto al nostro Giovanni Capuano, che l'ha raggiunto questa mattina. È colui che l'ha arrestato questa mattina. Sentiamo di cosa è accusato, insomma, Mario Chiesa. Ha uno dei ruoli principali, era titolare di questa società di intermediazione, che manovrava gli appalti che venivano indetti da società e Antebu a capitale pubblico e non, facendo sì che poi i lavori venissero affidati a ditte satelliti della società intermediazione. Sono coinvolti politici? No, assolutamente, politici per il momento non ce ne sono. Si parla di mazzette, di corruzione. L'altra volta Chiesa finì in carcere per 7 milioni di lire. In che ordine di grandezza siamo? Ma guardi, noi abbiamo quantificato in 2 milioni di euro l'illecito volume degli affari perseguiti nel quadriennio 2005-2009. Dazioni in denaro vero e proprio non ne abbiamo individuate. Noi abbiamo individuato una dazione di benefits che naturalmente si trasformano sempre in denaro, perché sono buoni pasto, sono buoni benzina, sono buoni per acquisti di abbigliamento. Nel momento in cui siete andati ad arrestarlo, Mario Chiesa vi ha detto qualcosa? Assolutamente no, era estremamente sereno. Era estremamente sereno. Allora, lo ripeto, garantisti, ci sarà un processo. Luca Magni, lei quando ha saputo, chi gliel'ha detta oggi la notizia? Quando l'ha saputo? L'ho saputo stamattina alle 7:15, mi ha chiamato mia sorella. Chi ha provato? Che sensazione? Come ha arrestato Mario Chiesa? Che ha detto? No, mi ha detto che era per traffico di rifiuti illeciti, per tangenti. Perché ho pensato, nonostante sia sicuramente garantista, che probabilmente ha messo a frutto la sua esperienza negli anni. C'è un pizzico di, come definirla, un po' anche di amarezza, anche di qualche sassolino, insomma, che si vuole togliere. Lei d'altronde ha sempre detto Tangentopoli non è mai finita, per la verità lo dicono anche tutti i magistrati che si occupano di corruzione, la corruzione non è mai finita, anzi forse è andata in maniera un po' più sotterranea, ma c'è ancora. Lei l'ha toccata più con mano? Beh, a me non è mai più capitato ovviamente di aver visto questi episodi di corruzione, però secondo me la corruzione non è tanto nei sistemi, nei partiti, ma è nell'uomo, per cui penso che questo arresto sia la conferma di quanto dico. Quindi non è il sistema, ma sono gli uomini, secondo lei, sempre. Certo. Senta, lei 7 milioni fu questo la dazione di denaro per cui fu arrestato Mario Chiesa, da lì partì Tangentopoli. Lei da allora, insomma, nel giro di qualche anno l'azienda che lei conduceva, l'azienda di imprese di pulizie, fallì, insomma, lei denunciò, disse anche sono stato veramente estromesso da tutto, insomma. No, io avevo 5 grossi clienti, tra cui il Piabergo Trivuzzo, che era la casa di riposo più grossa che ci sia in Italia, e ovviamente nel giro di pochi mesi ho perso tutti i miei clienti più importanti, per cui la mia azienda, non avendo più lavoro, purtroppo ha chiuso in malo modo. Voglio dire, lei l'avranno fatta chissà quante volte la domanda, insomma, ma allora ne è valsa la pena? Forse da lei è caduto un domino, insomma, che ha fatto cadere tutta una classe politica anche, oltre che classi imprenditoriali. Ma credo che sicuramente ne sia valsa la pena, anche perché in Italia è stato fatto un bel po' di pulizia e poi da lì poi è cambiata anche tutta la politica, i partiti. Certo, se tornando indietro in quel periodo mi sarei tutelato in modo diverso. In che senso? Nel senso che avrei fatto in modo che fossi più protetto dalle istituzioni. Anche perché si renda conto che io non ho mai avuto nessun tipo di parola di vicinanza da parte di nessuno. Finita la storia, poi sono stati tutti problemi miei. Senta, ma la tangente allora come si chiedeva in maniera così esplicita? Cioè per lavorare qui mi deve dare il 10%? Sì, in modo veramente molto esplicito, come se fosse la cosa più normale di questo mondo. E la reazione di un imprenditore giovane come era lei allora, magari alle prime armi, era di stupore oppure? No, non è stato di stupore, perché si sapeva, si diceva insomma che il sistema per lavorare era quello. Il discorso è che quando mi sono trovato ad avere realmente la richiesta, ho dovuto fare i conti con me stesso e per la mia azienda anche. Dal punto di vista, lei poi ha fatto politica anche se a livello locale, è stato, sì, credo, nella giunta di Monza, è stato anche assessore alla cultura di Monza, insomma ha visto anche dall'altra parte, visto che Tangentopoli segnò il crollo proprio di tutta una generazione di politici. A lei è mai capitato? No, forse sarebbe da stupidi andare a chiedere. No, una raccomandazione penso, o qualcosa. No, tenga presente che quando sono stato eletto la prima volta a fine 1992, nel 93 il consiglio comunale era un consiglio comunale composto tutto da persone che avevano pochi legami coi partiti, ovviamente erano state mandate in prima fila le persone più pulite che c'erano nei partiti, per cui era un consiglio comunale particolare. Ha sentito però nell'intervista per esempio il colonnello dire in questo caso almeno per ora non ci sono assolutamente politici coinvolti, certo. Secondo lei è cambiata da Tangentopoli il modo di corrompere la corruzione? Ma sicuramente sì, prima c'era proprio un sistema di dazione come disse il dottor Di Pietro, era una cosa così normale, così che facevano tutti, per cui era come se fosse una cosa che una cosa impunita, una cosa normale, una cosa di cui non c'era bisogno né di vergognarsi né di pensare che fosse un reato. Si era dimenticato, secondo me, si era persa la coscienza di quello che in realtà si stava facendo. E adesso? Adesso secondo me no, adesso la politica è cambiata sicuramente. Anche perché comunque ci sono sempre i costi della politica, però il potere del politico non è più dato da quanti soldi ha e da quante tessere possiede, secondo me, cosa che invece in quegli anni era così. Senta, in un caso dice forse dovevo tutelarmi di più, però non è pentito insomma di avere fatto cadere questa prima carta che poi ha fatto cadere tutto il castello? No, assolutamente. Su cosa pensa di Mario Chiesa ce l'ha già detto, garantisti fino in fondo, ma insomma la sua opinione è stata abbastanza dura e direi che non c'è da aggiungere molto, no? Direi di sì, no. La ringrazio Luca Magni, grazie per essere stato con noi. Voglio ricordare Luca Magni, imprenditore, nel 92 fece arrestare Mario Chiesa che, come abbiamo sentito dalle cronache, da questa mattina è tornato in carcere per un'inchiesta di presunto traffico di rifiuti illeciti. Grazie, ci fermiamo qui. Laura Marchesi, Alessandro Marcotullo in redazione, Carmelo Lauricella in regia, tra poco Giuliano Ferrara che parla di magistratura, soprattutto la magistratura democratica. È stato un congresso molto interessante nel quale si sono dette alcune cose nel rapporto tra magistrato, governo, eccetera. Noi ci risentiamo domattina. We'll be right back.